Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Si è portata al secondo posto, seguono a poca distanza. Marco Giulia, stai bella sveglia, dai! Ultimo giro, il cardiopalma! Anticipa l'arrabbiata 2, infine la secca, sali sul cordolo! Hanno rialzato, coglione! Se fossi stato a te, mi lo sapresti! Tutte cazzate, non mollare il gas! Anticipa! Sali sul cordolo, che lo passi, Matili, dai! Aspetta tutte! Sali sul cordolo! Avete appena sentito una clip tratta da Veloce come il vento, un film che è in questi giorni nelle sale, un film diretto da Matteo Rovere con Stefano Accorsi che parla del mondo delle auto, delle corse e di tutta l'umanità che ci gira attorno. Già, perché oggi parliamo di come cambia l'industria dell'auto, che è un tema importantissimo, è il tema centrale nel manifatturiero, perché nell'industria dell'auto nascono poi quei cambiamenti e quelle tendenze che influenzano la meccanica, influenzano tutto. Per esempio, l'ondata di automazione e di robotica trova alimento nell'industria dell'auto. Industria dell'auto che, se si guardano i dati, poi sentirete una scheda, ecco, è un'industria che sorprendentemente continua a crescere. Se guardiamo gli ultimi dati sulla produzione industriale di novembre, si vede un fortissimo contributo dato dall'industria dell'auto a questi risultati positivi. Di tutto ciò ne parliamo oggi con uno dei consulenti più noti in Italia e nel mondo su tutto questo settore, che è Stefano Aversa di Alix Partners. Buongiorno ingegnere. Buongiorno a voi. Allora, come mai l'industria dell'auto anche in Italia continua a crescere così, anche se l'ondata pure di sostituzione di veicoli vecchi sembrava essersi esaurita? Ma il livello, diciamo, di diffusione dell'auto in Europa e nei paesi industrializzati è già molto elevato, quindi la gran parte delle vendite sono vendite di sostituzione. Ciò detto, c'è comunque ancora un elemento demografico di crescita e c'è sicuramente stato dall'anno, diciamo, 2008 fino al 2014 un forte rallentamento che quindi ha fatto invecchiare il parco circolante, che adesso sta recuperando. Questo è particolarmente vero in Italia, dove dai picchi, diciamo, del 2007 si è sceso a un livello di 1.3 milioni di auto mai raggiunto per auto vendute, perché purtroppo quelle prodotte sono molto meno. Sì, sono molto meno. Quindi quest'anno c'è stata una crescita molto elevata, è stato uno dei paesi che è cresciuto di più, al 17,5%. Siamo comunque al 27% in meno del 2007, tanto per mettere le cose in prospettiva. Di queste auto vendute, solo 700.000 vengono prodotte in Italia e comunque queste 700.000 sono molte di più di quelle che erano alcuni anni fa, sono stati meno di 400.000, quindi una forte crescita delle produzioni, non solo dovute a auto, diciamo, di piccola cilindrata storicamente, ma anche per un cambio anche di strategia del gruppo FCA, Fiat Chrysler, produzione anche di auto più grandi ad alto valore aggiunto come la Giulia, lo Stelvio, prodotti tutti e due a Cassino, o la Ghibli a Grugliasco, o il Levante Maserati a Mirafiori. Questo ha portato non solo appunto un aumento di produzione in volumi, ma un più che proporzionale aumento dell'occupazione nel settore in Italia. Ecco, ma questa tendenza di crescita del mercato auto in Italia, mercato di vendita e mercato di produzione, secondo lei nei prossimi anni continuerà? In misura minore, si prevede sia l'anno prossimo che l'anno successivo un leggero aumento, si prevede che si possano superare 1.9 milioni, ma non raggiungere i 2.3 milioni o superare i 2.3 milioni come è stato in passato. È un mercato di sostituzione, la crescita in particolare in Italia non è del PIL, non è particolarmente brillante, e quindi ci aspettiamo una crescita sicuramente a una cifra. Ecco, ma però voi in generale come tendenza mondiale, voi di Alix Partners avete stimato che il numero di auto prodotte nel mondo continuerà a crescere un più 2,8% a livello mondiale, credo trainato soprattutto dai cosiddetti paesi in via di sviluppo. Sì, Cina in particolare. In termini di volumi la Cina è di gran lunga, rappresenta ancora più del 50% della crescita di quei numeri. Ecco, e entro il 2030 metà di quei veicoli saranno elettrici. Entro il 2030 le stime più ottimistiche parlano di 50%, noi ed io in particolare prevediamo che siano decisamente inferiori. E qui forse un paio di precisazioni: quando parliamo di vetture, diciamo, elettrificate, si includono anche le vetture ibride, che in questo momento sono quelle che stanno crescendo di più. Se guardiamo le ultime statistiche, per stare in Europa, per stare quindi a mercati a noi vicini, in realtà la crescita nell'ultimo quarter, addirittura nell'ultimo trimestre, c'è stata una decrescita delle vetture elettriche pure, e la crescita è stata invece sulle vetture ibride, sia quelle, diciamo, plug-in, quindi che hanno una batteria con un'autonomia di molti chilometri, sia quelle diciamo ibride più mild, quindi più leggere. Comunque tutto questo cambia anche totalmente la filiera dell'automotive e la fabbrica dell'automotive. Esatto, questo sarà un'autentica rivoluzione nell'ambito della produzione, perché è chiaro che un'auto completamente elettrica, quindi non una ibrida che continuerà ad avere un motore a combustione interna, ma un'auto completamente elettrica è un'auto che è molto più semplice dal punto di vista meccanico. Quindi in particolare inevitabilmente gli stabilimenti che produrranno motori e trasmissioni andranno progressivamente a ridursi, sostituiti da motori da stabilimenti che dovranno produrre invece motori elettrici e tutta la parte elettrica di controllo e di potenza che un'auto elettrica deve avere. Certamente. Comunque, visto che parliamo di come cambia la fabbrica delle auto e di come cambia il mondo delle auto, è necessario dare qualche numero. Sentite qua. Nel dicembre 2016 la produzione industriale italiana di mezzi di trasporto è cresciuta del 12,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un risultato da record che ha contribuito all'ottima crescita della produzione industriale italiana complessiva, che in quel periodo è aumentata addirittura del 6,6%, dell'1,4% su base mensile. Nello stesso periodo, per inciso, sono cresciuti praticamente tutti i settori, tranne tessile e abbigliamento, che purtroppo segna l'ennesimo calo a meno 4,1%. Si distinguono elettronica con più 11,9%, metallurgia con più 10,8%, gomma plastica con più 9,6% e farmaceutico con più 6,9%. Ma torniamo ai mezzi di trasporto, che poi sarebbero auto, moto, veicoli pesanti e componentistica. Per quanto riguarda gli autoveicoli a quattro ruote, auto, veicoli commerciali e autocarri, nell'intero 2016 in Italia ne sono stati prodotti 90.000 in più, che equivalgono a un incremento dell'8,8% rispetto al 2015. In numeri assoluti si tratta di 1.100.000 pezzi, 800.000 dei quali destinati all'esportazione. La parte del leone è stata fatta ovviamente da FCA, che ha fabbricato 713.000 autoveicoli, 344.000 veicoli commerciali leggeri e 45.000 autocarri. In sostanza, l'automotive è cresciuta di 4 volte la media della produzione industriale italiana, posizionandosi come driver dell'intera manifattura. L'automotive è anche tornata vicinissima ai livelli del 2006-2007, ma vengono privilegiate le nicchie più alte, con significativi incrementi di Maserati e Alfa Romeo, accanto alle nicchie di Ferrari e Lamborghini. Secondo le stime diffuse da FCA, nel corso del 2017 sarà soprattutto il marchio Alfa Romeo a contribuire alla crescita delle vetture made in Italy. Da segnalare, presso il Polo di Cassino, l'avvio della produzione del SUV Stelvio, affiancata alla Giulia e alla Giulietta. Passando dalla produzione alle vendite, i dati sono più che rosei. In Italia le immatricolazioni totalizzate a dicembre si attestano a 124.438 unità, più 13,1%. Nell'intero 2016 i volumi immatricolati ammontano a 1.824.968 unità, più 15,8%. Questo dato è coerente con la crescita delle immatricolazioni nell'intera Unione Europea. In tutto il 2016 i volumi registrati ammontano a 15.131.719 unità, il 6,5% in più rispetto al 2015, confermando le previsioni di superamento dei 15 milioni di unità. Il 2016 è il terzo anno consecutivo in crescita per il mercato europeo, che ha saputo esprimersi su livelli elevati nonostante l'instabilità politica e l'incertezza economica. In Europa occidentale il mercato ha registrato un aumento del 5,8%, con 13,97 milioni di immatricolazioni, mentre nell'area dei nuovi paesi membri UE l'incremento è stato del 15,9, con 1,16 milioni di auto vendute. Dopo aver sentito la scheda, dobbiamo interrompere per qualche secondo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia, i gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea a parlare di come cambia la fabbrica dell'auto, che vuol dire parlare di come cambia la vita di tutti noi, anche se noi non ne siamo sempre consapevoli, perché anche se non andiamo in auto, tutto quello che da 50 anni a questa parte almeno, se non da 70 anni, tutto quello che nasce dal mondo dell'auto poi cambia la vita e la cultura di tutti noi. Pensiamo solo al tema del petrolio, dell'approvvigionamento energetico, al tema dell'inquinamento. Stavamo giusto dicendo che il numero di auto nel mondo crescerà ancora e che però entro il 2030 c'è chi stima che la metà di questi veicoli saranno o elettrici o ibridi. E lì eravamo arrivati con l'ingegnere Aversa a dire: ma questo è vero, vuol dire che cambia tutta una filiera. E cambiare tutta una filiera è una rivoluzione pazzesca, perché voi pensate che in Italia il mondo dei componentisti e il mondo di rifornimento di parti meccaniche a vario titolo all'auto vale di più del mondo dell'auto stessa, e almeno il 50% in più. Quindi dire che cambia la filiera è dire molto, no, ingegnere Aversa? Ma la filiera cambia per alcuni componenti e molto meno per altri. Un'auto elettrica avrà ancora i freni, quindi chi produce i freni come la Brembo continuerà a produrre i freni, perché un'auto elettrica deve frenare con un'auto a propulsione diciamo meccanica, combustione interna, mentre chi produce un motore sicuramente viene impattato direttamente, o chi produce una trasmissione, perché i motori elettrici in gran parte non avranno bisogno nemmeno delle marce, perché sono motori con una coppia molto elevata. Quindi mentre chi produce elettronica crescerà, perché già oggi il contenuto di elettronica di un'auto ha raggiunto il valore di quello della meccanica, e in qualche caso nelle auto più grandi lo supera, nel futuro sarà ancora di più così. Quindi il motore, che oggi rappresenta, per intenderci, circa il 30-35% del costo dell'auto, verrà sostituito da costo di elettronica, quindi con un cambiamento molto importante. Quindi chi oggi produce quei componenti vedrà progressivamente, anche se molto lentamente, ridursi nei prossimi anni il proprio fatturato, e quindi dovrà cercare nuovi sbocchi. Senta, siccome il trend va anche verso la personalizzazione di massa, c'è chi dice che le catene di montaggio non ci saranno più e ci saranno delle isole di lavoro intorno alle quali i robot e gli umani opereranno, quindi saranno le macchine a diventare catena e non più le autovetture da produrre che gireranno. Beh, questo è un dibattito che è sicuramente molto vecchio. Gli stabilimenti dell'auto hanno circa 100 anni di storia, sono evoluti molto, ma evoluti, non rivoluzionati, quindi con i grandi tre reparti di lastratura, poi di verniciatura e di montaggio. Il reparto che si immagina che cambierà di più sarà proprio quello di montaggio, con uno possibile spostamento nella creazione più di montaggio ad isole. Questo perché? Perché intanto l'auto sarà più semplice, una parte molto complessa del motore e della meccanica verranno molto semplificate. Secondo, ci sono altre tecnologie che entrano in ballo, quindi per esempio quella della stampa 3D, quindi con la possibilità di stampare alcune parti addirittura a bordo macchina, quindi semplifica enormemente la filiera, ridurrà moltissimo i trasporti e potranno essere costruite direttamente in loco. Teniamo quello che già adesso avviene nella stampa 3D con i componenti dei motori degli aerei. L'auto è da sempre un po' diversa perché si parla di produzione di grande massa, quindi per grandi produzioni ancora la stampa 3D è decisamente troppo lenta per poter far fronte alle esigenze, ma questo sta cambiando sia perché le stampanti stanno diventando sempre più veloci, sia per quella personalizzazione che è un fenomeno che continua ad evolvere, anche se anche lui in maniera piuttosto lenta. Ma una cosa interessante è vedere come l'industria dell'auto è la prima a sperimentare e introdurre i cambiamenti che ci sono nella manifattura. Anche tutto il discorso dell'Industry 4.0 nasce in Germania e viene sperimentato per la prima volta dalle case automobilistiche tedesche. Sì, perché è sicuramente l'industria più competitiva che esista e quindi è un'industria che da sempre è stata abituata a ottimizzare ed è inevitabile che anche questa ondata della Factory 4.0, quindi dell'ingresso del computer in maniera prepotente anche nel mondo produttivo, verrà applicato per la prima volta. Quindi si immagina anche non solo una estensione della sensoristica collegata a internet alle varie macchine operatrici, ma addirittura macchine che sono in grado non solo di autodiagnosticarsi, ma anche in parte di autoripararsi. Quindi com'è possibile che la macchina si autoripari? Questa cosa è assolutamente affascinante, ce la spiega un po' meglio? Faccio un esempio: se io ho un robot che ha una scheda che si autodiagnostica avere un problema, io posso avere la macchina stessa o un altro robot che è montato su un carrello che arriva e sostituisce la scheda, o un motore elettrico, cioè il sensore che oggi è montato su molti motori elettrici, in particolare quelli grandi, che misurano le vibrazioni e quindi verificano che un motore o un cuscinetto è usurato, è tempo di cambiarlo, chiama automaticamente dal reparto e il pezzo può arrivare, addirittura se è stato progettato in maniera intelligente può essere automaticamente inserito e sostituito, oppure ci sarà un operatore che assisterà in questa operazione. Questo è insomma il concetto dell'Industry 4.0, che è un concetto che nasce in Germania e nelle case automobilistiche tedesche. Sì, ma in cui gli italiani hanno molto da dire, perché non dimentichiamoci che noi insieme ai giapponesi e ai tedeschi siamo i tre paesi che hanno la più alta percentuale di produzione, in particolare nel settore meccanico e dell'automazione, e siamo secondi a nessuno, in certi settori siamo assolutamente i numeri uno, come nel settore dell'automazione, nel packaging o nel food o nel tabacco. Quindi abbiamo una capacità storica ancora fortissima in questo settore, I sensori si comprano, magari non sono sviluppati necessariamente in Italia. La Bosch è la leader nella produzione di sensori. Sì, ci sono vari tipi. Noi siamo secondi a nessuno nell'integrazione di queste tecnologie in sistemi complessi, e qui è dove vedo un importante possibile sviluppo e crescita dell'Italia in un settore ad alta tecnologia, ma con una forte propensione all'integrazione di tecnologie piuttosto che allo sviluppo di tecnologie primarie. Ecco, parliamo un attimo di Industry 4.0, perché lei non è solo un esperto di automotive, ma anche di aziende industriali. Secondo lei, le aziende italiane rispetto ai loro competitor internazionali sono pronte? Le aziende italiane da sempre hanno investito in automazione più della media mondiale e anche della media dei paesi sviluppati. Questo per due fondamentali motivi: perché storicamente il nostro costo del lavoro era medio-alto ed era soprattutto molto poco flessibile, e poi per un'attitudine imprenditoriale italiana alla ottimizzazione che è anche qui seconda a nessuno. Quindi abbiamo una media industria italiana estremamente automatizzata, estremamente efficiente, spinta che però si è molto ridotta negli ultimi anni. Ecco perché il problema, io stavo per interromperla per dire, ma come mai, se le cose stanno così, i dati sugli investimenti dal 2008 sono in fortissimo calo, è praticamente un meno 20% degli investimenti, e sembra che gli imprenditori italiani non investono, e ci sono anche aziende che hanno macchinari vecchi di 20 anni? Sì, appunto, c'è stato sicuramente negli ultimi 10 anni un rallentamento molto forte di questa spinta imprenditoriale italiana, e le cause anche qui sono molteplici. C'è sicuramente un non ottimismo di fondo sul futuro, sullo sviluppo sia delle vendite che delle tecnologie stesse. C'è un accesso al credito che si è sicuramente... Ma non ci sarà anche un po' di pigrizia degli imprenditori italiani? Perché vede, molti imprenditori sono degli eroi, soprattutto quel 20-30% di medie imprese che tiene in piedi l'intero sistema, ma mica tutti, ci sono anche quelli che si tengono i soldi, che si comprano le Porsche, che li sperperano, che impoveriscono l'azienda e che sono di un'assoluta mediocrità che riflette magari anche la mediocrità della classe politica. Ma l'imprenditore, se è un imprenditore, la spinta ce l'ha per definizione. Credo che ci sia stato sicuramente un assopimento di questa spinta e un generale pessimismo che si è forse impadronito anche del mondo imprenditoriale. E questo è sicuramente una spinta che va ritrovata, perché alla fine se io aspetto che i consumi ripartano per ripartire con gli investimenti, forse dovrò... Io devo precedere ai consumi. Esatto, gli investimenti da sempre devono anticipare la domanda e non possono seguirla e basta. E questo coraggio l'imprenditore, in particolare l'imprenditore italiano, deve ritrovarlo con innovazione, con attitudine al rischio, e il credito deve poterlo seguire. Anche il credito, sappiamo tutti, il sistema italiano bancario non è dei più solidi nel mondo, e abbiamo delle banche estremamente forti, ma ne abbiamo anche di molto deboli, e questo non facilita certamente. E poi ci sono stati alcuni pirati, tra quelli che io ho menzionato prima, pirati che per fortuna non ci sono più, che negli anni passati ne hanno abusato delle banche, perché c'è stato un momento in cui, un biennio diciamo tra il 2012 e il 2014, in cui era molto facile ottenere concordati addirittura in continuità, che si traducevano nel fatto che io imprenditore non pago più nessuno. Magari se c'è l'assuntore ancora un senso per preservare la continuità aziendale, ma quando c'è il concordato in continuità e si azzera tutto, le banche ci rimettono tutto, poi è un danno al sistema. E tutto questo in quel biennio che ho appena citato ha avuto delle dimensioni molto rilevanti e ha poi danneggiato anche gli imprenditori sani, gli imprenditori eroici, che sono quelli che tengono in piedi il paese. Se noi prendessimo un po' della mentalità americana in cui sbagliare fa parte delle possibilità di un imprenditore, e quindi se io sbaglio una volta posso comunque fare ripartire con quella che chiamano la fresh start, quindi una noi questa mentalità non ce l'abbiamo. Potremmo parlarne per ore ma purtroppo dobbiamo chiudere. Saluto l'ingegnera Versa, che però sarà protagonista di varie nostre puntate. Grazie ingegnere. E grazie a voi. E saluto gli ascoltatori, ci sentiamo domani alle 13:10.